sick chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a sick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta stitch it. She's a neat trick, but she bought a make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll stitch it. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah know she's a sick. Yeah, yeah. Mama, mama, I stick a chick. Yeah, yeah. Slick Chick, Radio Wombat, intorno alle 21, beh sì, intorno parecchio perché in effetti sto cominciando con un tantino di ritardo, sono quasi le 21:18, perdonatemi, e qui nella Wombat Caverna fa un gran freddo e per riscaldarci ho pensato di prepararvi una puntata, lo so che state per pensare natalizia, no, no, assolutamente non sono così banalotta, vi ho preparato invece altresì una puntata un pochino più intima, un po' più calda, delle note un po' calme, così, perché in effetti la puntata di oggi è sulle canzoni, i brani, i pezzi, come li volete chiamare, acustici, puntata unplugged, spina staccata, ovvero dei brani che nascono come acustici, cioè proprio brani scritti esplicitamente in acustica, oppure che sono la versione acustica di qualcos'altro, magari un originale che invece era pieno di strumenti elettrici, di effetti, di casino, di quant'altro, e che si scarnifica un po' di più perché a un certo punto si decide di farne una versione più semplice, ma poi semplice è relativo, insomma, fino a un certo punto, però insomma più scarna, ecco. Sono brani necessariamente più intimisti e in questa maniera si riesce a dare evidentemente più spazio alle parole, ci sono molti più vuoti e quindi anche un maggiore o migliore modo di concentrarsi. E poi oltre a questi brani ci sono interi dischi rifatti acustici, ad esempio mi viene in mente e lo ascolteremo, i Cure, che hanno riarrangiato in acustica una buona parte del loro repertorio, lo vedremo poi, e che fra l'altro secondo me i brani in acustica acustici dei Cure sono veramente veramente belli. Ho alternato in questa scaletta che è bella lunghetta, ho alternato brani veramente pop, quasi da vergognarsene, a sfiziosità con cui credo, spero, riuscirò a farmi perdonare dagli orecchi più raffinati in mezzo a voi. E direi di iniziare subito perché c'è veramente tanto da ascoltare e iniziamo con i Social Distortion, che hanno realizzato da soli, cioè in questo caso non si tratta di nessuna cover, tra l'altro forse solo un caso di questa scaletta si tratta di cover fatte da altri, qui è una cover di loro stessi, sono loro stessi che realizzano Reach for the Sky in acustica, e l'album è Sex, Love and Rock and Roll del 2004 e appunto ascoltiamoli. Thank you. to own. I find myself not thinking twice. I never thought about no future. It's just a roll of the dice. But the day may come when you got something to lose, and just when you think you're done paying dues, you say to yourself, dear God, what have I done? And hope it's not too late, 'cause tomorrow may never come. Reach for the sky, 'cause tomorrow may never come. Reach for the sky, 'cause tomorrow may never come. Yesterday is history, tomorrow's a mystery. But baby, right now it's just about you and me. You can run, you can hide, just like Bonnie and Clyde. Reach for the sky, ain't never gonna die. Like the Lord, for the love that I have found, and hold you tight. Take this moment, try if you can make it last. Don't think about no future, and just forget about the past and make it last. Social Distortion, e proseguendo lungo questa strada di brani acustici dalle tonalità un po' più soffuse, anche se insomma finora soffuse fino a un certo punto, arriviamo a gli Smiths. Gli Smiths hanno fatto un brano che molti di voi conosceranno, perché insomma è abbastanza famoso, che è Please Please Please Let Me Get What I Want, che già di suo insomma era alquanto intimo e così soffuso, ma la versione che vi faccio ascoltare è, appunto, vi dicevo prima che c'era una cover fatta da altri, bene, questa è lei, ed è fatta dai Clay Hill, che sono un gruppo di, sempre un gruppo inglese, un trio in particolare, che sostanzialmente famosa il giusto, ma più che altro a noi pubblico, grande pubblico, è nota per aver interpretato appunto questa canzone degli Smiths ed essere finita nella colonna sonora di This Is England di Shane Meadows. Tra l'altro, vabbè, ve la ricorderete, penso, soprattutto se avete visto This Is England, se non avete visto, fra l'altro, vergogna, guardatelo immediatamente. Tra l'altro mi sento di consigliarvi anche un po' tutta la filmografia, o almeno gran parte di essa, di Shane Meadows, che ha fatto degli altri bellissimi film, e in particolare i Clay Hill hanno fatto tutte le musiche anche di un altro film, sempre di Shane Meadows, del 2008, Summer's Town, anch'esso veramente bello, che se non avete visto vi consiglio. Tra l'altro dentro c'era anche il, come protagonista, il piccolo protagonista di This Is England, quindi insomma facce note e simpatiche, belle, ma anche un bellissimo film. La colonna sonora poi appunto è di Clay Hill, che a mio avviso, a mio gusto, non è che fanno particolarmente impazzire, ma la loro interpretazione di Please Let Me Get What I Want degli Smiths, secondo me è proprio bella. Change. See the luck of it, make a good man turn back. So please, please, please, let me, let me, let me, let me get what I want this time. Mi direte voi, grazie tante, sono riusciti a fare una bella versione, è anche un po' difficile sbagliarla visto che insomma si parte da cotanto pezzo, ma d'altra parte insomma si poteva anche rovinare e secondo me invece sono stati bravi. Quando va detto, ecco. E vi dicevo a inizio trasmissione che vergognosamente vi avrei fatto sentire dei brani mainstream piuttosto pop, ebbene sì, me lo rivendico, Dai, siamo sotto Natale, avrei potuto far sentire, non lo so, gli inni natalizi, quindi comunque vi è andata meglio. E quindi adesso vi beccate i Rolling Stones. Iniziamo subito con questo. Sì, Rolling Stones, versione acustica di Wild Horses, d'altronde un pezzone che andava fatto sentire, via, è andata così. L'album è Sticky Fingers del 1971 e la leggenda vuole, almeno così riportano alcuni, che Mick Jagger scrisse il testo di Wild Horses parlando e raccontando della fine della sua relazione con Marianne Faithfull, che stava, era quasi alla fine, e quindi lui si sfogò un po' parlando di questo dentro Wild Horses. Tra l'altro anche Marianne Faithfull conferma un po' questa teoria, perché ad esempio cita la frase "Wild horses couldn't drag me away", i cavalli selvaggi non potranno trascinarmi via, e dice che fu la prima cosa che disse lei, Marianne, a Mick Jagger quando si risvegliò dal coma farmacologico che aveva avuto in seguito a un'overdose nel 1969. In realtà poi Mick Jagger ha negato tutto, ha detto che la canzone era stata scritta pensando alla lontananza del figlio di cui sentiva tanto la mancanza, peraltro insomma anche lì figlio avuto con Marianne Faithfull, quindi insomma siamo un po' lì, però in realtà nega tutto e dice che no, che anzi Marianne Faithfull non c'entra niente, saranno belle lasciate, non ne frega niente, eccetera. Ora c'è da dire che Marianne Faithfull non doveva essere un tipino semplice in quegli anni, ne abbiamo già parlato in qualche scorsa puntata, mi sento di poter dire che Mick Jagger, almeno questa è la mia impressione, mi ha sempre dato l'impressione di essere un bello stronzo e che quindi, insomma, ecco, una coppia complessa, ma lui in particolare, manco la soddisfazione di dedicargli sta canzone alla povera Marianna, gliela poteva anche dire, che anche se non era vero, glielo poteva dire che era per lei, insomma. Vabbè, comunque, qui c'è della mancanza di stile, persone antipatiche. E questi sono quindi i Rolling Stones con una, va detto, bella versione di Wild Horses. It's easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am, you know I can't let you slide through my hands. Wild horses drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer. Now you decided to show me the same. No sweeping exits, them someday. Don't make me say it. Oh. kick you out. Hardly lay a meal after me. Urla scomposte. Questa era Björk, Come to Me, dall'album debut del 1993, il primo album solista di Björk, e direi accompagnata da un clavicembalo a orecchio, direi, o qualcosa di molto virginale, non lo so, comunque qualcosa di molto simile. E beh, appunto, direi che in questo brano si poteva ascoltare un po' quello che dicevo all'inizio di come l'acustico dia la possibilità di ascoltare un po' tutte le sfumature, cogliere tutto quello che altrimenti spesso viene sovrastato dai mille effetti, mille strumenti, quell'orchestra più o meno grande, che sicuramente è entusiasmante, ma a volte toglie anche la possibilità di cogliere molte cose. Il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è un altro di quelli strafamosi, che appunto di cui un po' mi vergogno, ma fino a un certo punto. Vabbè, diciamo, li dovevo mettere prima o poi i bianchissimi Led Zeppelin. Non l'avevo mai fatto, ma anche un po' in onore a tutti i vinili che ho a casa tramandatimi dai miei familiari, d'altra parte li dovevo mettere. E ho scelto come canzone da farvi ascoltare, anche se insomma le Zeppelin di acustico avevano diversi brani, anche perché diciamo che se lo potevano abbastanza permettere, visto il virtuosismo che li contraddistingueva. E comunque ho scelto Going to California, e l'album è le Zeppelin 4 del 1971. Originariamente intitolata Guide to California, e invece appunto poi ha preso un po' il nome di Going to California, ed è, lo sentirete insomma se non ve lo ricordate, un po' quasi folk, anche se la voce poi di Robert Plant è talmente associabile a quel pre-heavy metal o quel pre-hard rock a cui siamo abituati, che insomma definirla folk sarebbe veramente azzardato, però beh sì, un po' strani come le Zeppelin. E in questo caso, oltre a Robert Plant, il trio che poi va a suonare questo brano è formato da Jimmy Page, ovviamente, alla chitarra acustica, e John Paul Jones suona il mandolino, lo ascolterete. Pare che anche qui, giusto per tornare alle dediche, le canzoni dedicate ad altri, molti hanno visto un po' in questa Going to California una dedica a Joni Mitchell, soprattutto quando si riferivano, cantavano la ragazza con l'amore negli occhi e i fiori tra i capelli. In effetti poteva starci quella fricchettona di Joni Mitchell, direi che ci poteva star dentro. E pare che appunto sia Plant che Page avevano una grandissima stima sia musicale che anche dei testi e quant'altro per Joni Mitchell. Boh, che vi devo dire, ognuno ha i propri miti, a me non proprio mi fa un po' rabbrividire, ma vabbè, d'altra parte neanche le Zeppelin sono i miei miti, quindi ognuno il suo. E oltretutto, ad avvalorare questa tesi c'è anche che dal vivo Plant, quando faceva questo pezzo, spesso diceva il nome Johnny dopo il verso "To find a queen without a king, scusate, they say she play guitar and cries and sings". Quindi ci poteva stare, e probabilmente un riferimento al brano di Joni Mitchell che era "I Had a King" di pochi anni prima, del 1967. Tant'è, sono dettagli biografici che ci interessano il giusto, ma comunque sia, pensatela un po' così, questi mielosi Led Zeppelin che dedicano un pezzo all'ancor più mielosa, direi, Joni Mitchell. Questa è "Going to California", appunto, il 1971. Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray, wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake, the children of the sun begin away. Watch out. It seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it started to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach you in time. Meet you up there and the path runs straight. Without a king, they say she plays guitar and cries and sings. La la la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Thank you. I still recall the taste of your tears. Echoing your voice just like the ringing in my ears. My favorite dreams of you still wash ashore. Scraping through my head till I don't wanna sleep anymore. This all go away. You make this all go away. I'm down to just one thing. I'm starting to scare myself. You make this all go away. You make it all go away. I just want something. I just want something I can never have. You always were the one to show me how. Back then I couldn't do things that I can do now. This thing is slowly taking me apart. Gray would be the color if I had a heart. Come on, tell me. Just one thing, I'm starting to scare myself. You make this all go away. You make it all go away. I just want something. I just want something. Just a free fucking reminder. Nine Inch Nails, Something I Can Never Have Still. L'avrete riconosciuta, famosissima canzone di Nine Inch Nails in una versione live, quindi perdonerete un po' la qualità, che non era proprio delle migliori, soprattutto nella voce, ma vabbè, comunque era particolarmente intensa secondo me. L'album è, da cui è tratta l'originale, è il primo album di Nine Inch Nails del 1989, Pretty Hate Machine, e tra l'altro qualcuno se la ricorderà anche nel film Natural Born Killers. E il tema poi della canzone ricorrente è un po' quello del suicidio, quindi allegria e voglia di vivere, come d'altronde anche nel film, insomma ci stava bene. Proseguendo il nostro corso di questa puntata dedicato alle atmosfere soffuse della musica acustica, che nasce come acustica o ci diventa per qualche ragione, arriviamo al 1991 e a una serie di pezzi che i Cure hanno registrato acustici. Ve ne accennavo all'inizio, perché effettivamente furono invitati, come tanti altri, all'MTV Unplugged. I più vecchi se lo ricorderanno, MTV Unplugged era questa trasmissione ospitata all'interno di MTV che chiedeva a vari musicisti, tutti ovviamente patinati e famosi, di esibirsi in un concerto live completamente acustico, quindi di rivisitare tutti i propri brani in questa chiave. Tantissimi hanno raccolto l'invito, da Björk, che abbiamo sentito qualche pezzo fa, My Cure, Pearl Jam, i famosissimi Nirvana. Non so se vi ricordate, io me lo ricordo stampato in testa, quell'orribile golfino marroncino che aveva Kurt Cobain. E d'altra parte a me mi hanno fatto sempre schifo i Nirvana, e anche allora, e insomma tantissimi sono passati di lì. E devo dire che mi dispiace fare un complimento alla commercialissima e odiosa MTV, però gli va dato atto che l'idea era piuttosto furbetta e ben fatta, anche perché effettivamente il risultato era ottimo, i concerti che ne venivano fuori erano di qualità spesso ottima, e tra l'altro a volte si otteneva dei risultati ancora meglio delle originali, almeno a mio avviso. In particolare, non so voi, ma i pezzi che i Cure hanno registrato in acustica secondo me sono veramente bellissimi, e io me li ascolterei all'infinito, dal primo all'ultimo. E a posteriori, in realtà i Cure hanno fatto uscire un disco chiamato The Cure Unplugged and More, che contiene 72 minuti e mezzo di loro pezzi in versione acustica, appunto, ma non soltanto quelli registrati durante l'Unplugged, cioè MTV Show, il 3 marzo del 1991. Sì, lì ci sono 8 tracce tratte da quel live, ma ci sono anche altre tracce registrate 10 anni prima, nel 1981, al Retro Rock Festival in Belgio. Quindi un disco molto corposo, con 20 pezzi di musica acustica, ovviamente i pezzi che avevano fatto fino a quel momento i Cure, insomma, però molto belli. E niente, questo in realtà vi faccio ascoltare uno di questi brani. Ho avuto la difficoltà a sceglierli, perché veramente io sono un po' una patita di questo disco, e quindi dopo lungo penare ho deciso In Between Days. We'll be right back. Wombat Radio, sempre Slick Chick. E vi ricordo, perché ho dimenticato di farlo all'inizio, i nostri social Wombat, in particolare il nostro sito wombat.noblogs.org, e siamo in attesa di alcune novità. Ci sono nuove trasmissioni pronte a partire, soprattutto dall'anno prossimo, dal 2018 avremo almeno 2-3 trasmissioni nuove, quindi insomma vi consiglio di tenervi aggiornati in primis sul nostro sito, appunto. E poi, sempre come contatto primario, vi do la nostra casella di posta, postawombat@insiberia.net. Siamo un po' delle capre, non la leggiamo spessissimissimo. Se dovete se ci avete scritto e non vi abbiamo ancora risposto, pazientate, lo faremo alla fine. Alla fine, abbiate fiducia in noi, lo faremo. Bene, queste erano le mie incombenze per il momento, e proseguiamo velocissimi, perché non c'è tantissimo tempo, ma in scaletta abbiamo ancora tante belle cose da ascoltare, e quindi proseguiamo veloci con i Bad Religion, e in particolare Cronofobia, dall'album New Maps of Hell del 2007, album rifatto totalmente in acustica, e anche qui secondo me si potrebbe dire che siamo forse meglio che nell'originale. Giudicate un po' voi. These rational delusions have got to cease. The second hand has finally got the best of me. I'm too aware about the singularity that brought me to the edge of time. And it's always on my mind now. They say that what is past is coming back someday. The world is turning faster, but it's just one way. And I'm desperate to try most anything to abate a simple chronophobia. A simple chronophobia now. A simple chronophobia. A simple chronophobia now. Maybe there's a science or technology to help me come to terms with my maker. Since natural selection never banked on me, I must be an exception to the plan. Someone help me understand now. Cryogenic methods are intractable, and collagen polymers aren't so terrible, but they still can't prevent the inevitable farewell. Simple chronophobia. Simple chronophobia now. Simple chronophobia. Simple chronophobia now. If you do believe in God, you're wrong. You're wrong about virtues of Christianity. You're wrong if you agree with Sean Hannity. If you think that's right, it's about nationality. You're fucking wrong. You're wrong if you imprison people turning tricks. And you're wrong about trickle-down economics. If you think that punk rock doesn't mix with politics, totally wrong. You're wrong for hating queers and eating skiers. If you kill for the thrill of the hunt, you're wrong for wearing fur and not hating Ann Coulter, cause she's a cunting cunt. Oh, you're wrong if you celebrate Columbus Day. And you're wrong if you think there'll be a judgment day. You're a child. Ecco, e questo succede quando le trasmissioni si preparano in fretta e furia e non si riascoltano i brani prima di mandarli in onda. E sì, questa era la versione ovviamente non acustica di You're Wrong dei NoFX. Beh, sappiate che ne esiste anche una versione acustica, anche perché questa qui era una versione live, anche fra l'altro neanche particolarmente entusiasmante, e beh sì, l'album era They Have Actually Gotten Worse Live del 2007. Vi invito ad andarvela a sentire, la versione acustica era molto bella, peccato che non l'ho condivisa con voi, ma perdonatemi. Proseguiamo, questa, la prossima, vi giuro che è acustica davvero, anche perché proprio è così dall'inizio, e si tratta di If I Ever Leave This World Alive dei Flogging Molly, e, ovvero se mai riuscirò a sopravvivere a questo mondo, se mai riuscirò a uscirne vivo. I Flogging Molly, se non li conoscete, sono un gruppo di origine irlandese, però in realtà residente a Los Angeles, più o meno si sono formati alla fine degli anni 90 e come un po' altri tipo Dropkick Murphys eccetera fanno un po' questo, quello che viene definito Celtic Punk o Irish Punk, anche se i Flogging Molly in realtà rifuggono abbastanza questo tipo di definizioni. Sono influenzati però, tant'è, e si sente benissimo, da gruppi come i Pogues, gli Stiff Little Fingers, insomma un bel po' di punk irlandese, e anche però country, dalla Johnny Cash simili. D'altronde anch'esso, poi se andiamo a indagare, di origine irlandese, pure quello lì. Quindi insomma, ci tengono alle radici, ecco, i Flogging Molly. Tra l'altro si dice che Dave King, che è colui che compone la maggior parte delle canzoni e i testi, scrive appunto i testi con una macchina da scrivere del 1916, ovvero l'anno dell'insurrezione di Pasqua in Irlanda, giusto per ricordarsi un po' quale sangue gli scorre nelle vene. Il Flogging Molly, in realtà proprio il nome della band cita esplicitamente Molly, la cara vecchia Molly, che è un personaggio iconico, leggendario irlandese, soprattutto di Dublino, devo dire, è un po' la figura chiave dublinese, anche un po' stereotipata se vogliamo, ma tant'è, e si riferisce anche a un brano dedicato proprio a Molly, appunto, che era Molly, era questa figura di cui peraltro non si è assolutamente certi che sia veramente esistita, probabilmente era un po' un'invenzione, era appunto il brano, era un brano tradizionale molto antico, che parlava di questa pescivendola, una giovane pescivendola del villaggio di Hoth a nord di Dublino, e questa giovane Molly era una pescivendola che portava in giro il proprio pesce su questo carretto, morta da giovanissima a causa di una non meglio specificata febbre. Questa leggenda in realtà partiva, pare, dal XVII secolo, e in realtà poi tutti i dublinesi questa cosa la sanno e ve la dicono senza nasconderla. In realtà, altro che Pescivendola, pare che la giovane Molly in realtà fosse una prostituta o perlomeno alternasse un po' i due mestieri per arrotondare. Cosa che appunto nel 1600 era abbastanza ovvia. E è buffo e interessante notare come adesso nelle vie più trafficate davanti al college più prestigioso di Dublino troneggi appunto un monumento dedicato alla pescivendola o prostituta Molly. E sia diventato un po' il simbolo di questa Dublino, anche quella di oggi, della Celtic Tiger, eccetera, eccetera. E fra l'altro, monumento piuttosto orrendo che gli stessi dublinesi giustamente odiano, fa un po' schifo, in effetti non è proprio bello, ma vabbè. E in realtà probabilmente la vera storia di Molly, appunto, che oltre a fare la prostituta, chiaramente morì per malattie venere o forse anche soltanto del tifo, però insomma il suo destino era un po' più quello. E d'altronde non se ne sa molto, non si riesce a capire poi se questa Molly poi effettivamente è esistita o no, ma diciamo la dice abbastanza lunga su le origini e le peripezie di questo popolo, senza parlare degli inglesi, e lì si aprirebbero dei tombini enormi. Quindi questa è If I Ever Leave This World Alive dei Flogging Molly, l'album, non mi ricordo se ve l'ho già detto, no, forse no, è Alive Behind the Green Door del 1997. If I ever leave this world alive, well, thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Wherever I am, you'll always be more than just a memory. If I you feel will soon subside. So in a word, don't shed a tear. I'll be here when it all gets weird. If I ever leave this world alive. E questi erano i Flogging Molly. Ora entriamo in una fase un po' meno pop. Beh, no, i Flogging Molly già non lo erano, ma insomma ci lasciamo alle spalle un po' quelle brutture che vi ho fatto sentire prima e ci addentriamo in alcune, vi faccio sentire delle perle di gruppi che secondo me non conoscete e che invece vale la pena che ascoltiate. Si tratta di alcuni gruppi della scena, diciamo, potremmo definirla punk anarchica, narco-punk, ma sarebbe comunque abbastanza riduttivo. Comunque di questa scena colorata, buffa e strana, americana degli Stati Uniti, ci sono vari gruppi in particolare che si sono distinti all'interno di questa scena per la scelta di suonare in acustico soltanto spesso con una chitarrina ma a volte invece con strumenti assurdi e completamente bizzarri. Sono tutti gruppi formati da gente del giroscooter, appunto anarchici, ecologisti vari, alcuni hanno fatto parte del movimento di Occupy per ovvie ragioni, alcuni no, ma in ogni caso formano un po' quel sottobosco culturale, politico e sociale che esiste negli Stati Uniti, che è difficilissimo conoscere per noi in Europa, se non per caso, se non ci arrivi per caso, diciamo. Dedico in particolare questi pezzi che seguiranno quindi al mio amico Margaret Killjoy, che è tantissimo che non vedo e che però mi ricorda sempre quel tipo di scena lì, un po' in particolare la scena steampunk newyorkese, non solo, insomma, tutto quel giro che da solo, perché veramente negli Stati Uniti penso che ti sentirai parecchio solo a fare queste cose, e che lo stesso in ogni caso, in maniera abbastanza testarda, anche se variopinta, a volte maldestra e a volte agli occhi soprattutto di noi europei molto fricchettona, ma in ogni caso resistono, insistono e fanno delle cose anche molto belle. Quindi di questo giro vi faccio ascoltare tre gruppi e tre pezzi, e tutti e tre, beh, ognuno abbastanza diverso, però in realtà tutti e tre accomunati, oltre che da questa attitudine di cui parlavamo fino ad ora, ma anche dall'uso degli strumenti esclusivamente acustici e di queste tonalità un po' folk, ma che appunto non si rifanno necessariamente al folk old style dei bei tempi che furono, e questo secondo me gli dà un bel po', insomma, gli fa onore. In particolare iniziamo con i Blackbird Rome, che hanno fatto diversi album, sono attivi dal 2004 e sono californiani. Di Santa Cruz in particolare, e sono un piccolo collettivo che, vabbè, di quello che vi dicevo prima, scooter, pirati vari e personaggi improbabili, e che tra le varie cose, oltre a occupare case, impegnarsi nelle varie lotte, nei vari residuali movimenti statunitensi, in realtà fanno anche musica, la fanno bene e fondano etichette e si impegnano nel DIY. In particolare hanno fondato questa etichetta chiamata Black Power, che fondamentalmente supportava altri progetti sempre di questa scena un po' folk. E il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si intitola Ravashol in Valhalla, quindi proprio mischiando le varie leggende di varia natura, un Ravashol celtico. Quindi, citando Ravashol, ebbene signori, non vi sono criminali da giudicare, ma le cause del crimine da distruggere. Sentiamoci Blackbird Rome, Ravashol in Valhalla, l'album è Sweden del 2008. Cowards, obsessed, our eyes were burned in gold bars from which the hangman fell. God reason. We came across a pharmacy with its windows busted out. Pushed on through the broken glass and had ourselves a look around. The medicines that escalate macabre for the mouth. We quickly filled our pockets with pills of every kind. All sorts of shit like aspirin that soon colonized our minds. And then we died. And then we died. Oh, but our rotting corpses lying there soon began to leak and grow. These lesions that'll smell just like rose. And all the blood and guts inside us germinated into timeless pages stained with lines of lovely prose. Ecco qua, questi erano il secondo gruppo, cioè, che di quelli che vi stavo raccontando prima, e sono i tax payers, madonna com'è difficile, comunque i pagatori di tasse, ecco, i paganti tasse, con Medicines. E anche loro, appunto, squatter anarchici e sostenitori di Foot Not Bombs e quant'altro, e nati all'incirca nel 2007 a St. John's in Oregon. Ma prima di continuare, ci sono ancora due pezzi che ci aspettano, pezzi anche parecchio densi e interessanti, ma prima di continuare vi voglio leggere gli appuntamenti della Wombat Agenda e le cose che ci aspettano per questo pre-Natale, perché non ci è arrivato tantissimo, soprattutto niente che riguarda strettamente il Natale, ma vi posso intanto dire che venerdì 22 dicembre al K100, al cantiere sociale Camilo Sanfuegos di Campi Bisenzio, restiamo direi decisamente in tema, perché c'è una serata acustica con Malerba e Path, più o meno vengono definiti come working class ballads, quindi una serata a base di chitarre acustiche, ballate e canzoni d'autore. Quindi diciamo che se vi ho incuriosito e vi ho fatto venire un po' la voglia di continuare ad ascoltare canzoni acustiche, versioni acustiche di musica, potete farlo tranquillamente anche venerdì 22 al K100. E poi invece il giorno successivo, sabato 23 dicembre, alla Polveriera, questa volta, quindi alla Polveriera Spazio Comune, c'è dalle 17.30 in poi un'iniziativa benefit per i compagni denunciati e le spese legali del collettivo SCA Galileo, del liceo classico Galileo, del suo collettivo. In particolare alle 17.30 si inizia con il cineforum Pepe Mujica, Fragile Equilibrio, un documentario sull'Uruguay e sul suo ex presidente, quindi varie storie. E poi segue un aperitivo con cibo buono, birrini, vino e vario. E quindi musica, più a mancare, per non farci mancare niente, a seguire un karaoke trash. E quindi, insomma, se volete fare baldoria prima di Natale e arrivare alla vigilia belli carichi, vi invito alla Polveriera il 23 dicembre dalle 17.30 in poi, fino sempre, vi ricordo, intorno alle 11, perché lo spazio vitale delle serate alla Polveriera si conclude verso quell'ora. Basta, questi i due rapidi appuntamenti, ce ne sarebbero altri per le successive settimane, ma lasciamo, insomma, non facciamo spoiler, come si dice tra i giovani, e quindi ve li beccherete nei prossimi giorni. Proseguiamo, abbiamo ancora, vi dicevo, due pezzi da ascoltare. Il primo è ancora di uno di questi gruppi di cui vi parlavo, del giro un po' anarcho-punk e simili, però acustici e pirateschi statunitensi, e qui arriviamo agli Orphans, The Orphans, con For an Old Kentucky Anarchist. L'album è Raise the Youth del 2001 e The Orphans sono altri squatteroni del giro, in particolare questa volta vengono da Filadelfia. Ascoltateveli. Upon a forgotten mountaintop lay a garden untended and dry. 'Twas a yard that hadn't felt children's feet running for the mother long ago taught her children how to fly. Within a simple cabin, untouched by industrial hands, sat the aged mother in her home. You can't escape the picture frames, there's too many, she said. They keep me from being alone, yeah. Well, she spoke, he was an honest man. He worked hard to put food on our plates. Well, we had more babies than we had arms. We struggled all our lives, but the rewards were great. And when my son came home from the war, he rested his head on my breast and said, "Ma, I'm tired of being used and grinded down. I feel so low. Can you make me feel like I'm the best?" Well, my best friend truly, a savage man, he wore her like a bad tattoo. For his only love was for a bottle. She said, "There's only one thing left for me to do: to be wild once again, to take back my life and run away, set flames to his truck. He won't ever know what he's been missing. I did every day, joy, freedom, dance, and love." All the stories that this mother spoke to me as I brought her garden back to grow. I was rewarded with a warm meal, tales never to be heard. Some call it poverty, but they'll never know. She said, "All I got's my stories and this old guitar. My crops have all come and gone away. I got a head full of recipes, it ties into the taste, and I like it to wake up and greet the day. Got a bad back from raising my children, from hugging my husband so tight. Hell, I never cared much for any government. I got my Jesus when I feel the time is right. Singing, I'm the richest I'll ever be. I embrace the world I have all around me. So sing a dying song and slap your knee. Have a taste of true anarchy." Bene, e The Orphans ci accompagnano all'ultimo pezzo, ci dirigono verso l'ultimo pezzo della scaletta di questa puntata, ultimo pezzo che tocca affrontare a Johnny Thunders. Johnny Thunders, sì, ebbene sì, proprio lui, chitarrista bislacco e di alterne fortune, potremmo dire, dei New York Dolls, degli Heartbreakers, poi, e vabbè, Johnny Thunders, sì, quello lì, all'anagrafe John Anthony Genzale Junior, importante il Junior, nato da una famiglia di immigrati italiani di seconda generazione originari della provincia di Avellino, e si vede secondo me, perché c'ha proprio la faccia da italiano, non so se lo notate, vorrei essere razzista con me stesso, me stessa, e dire che effettivamente sì, c'ha proprio la faccia dell'italiano Johnny Thunders, con quell'occhio un po' malinconico, un po' sfigato, come peraltro poi è stato. E tra il 1978, cioè dopo tutte le varie fortune che poi c'erano state con i New York Dolls, le meraviglie che avevano creato, che poi l'hanno portati a essere tra i primi, diciamo, a fare un po' da ponte tra il glam e il punk, tra il 1978 e il 1988 pubblicò vari album solisti, Johnny Thunders, prima di morire nel 1991 nella camera 37 a New Orleans, nel quartiere francese, ovviamente probabilmente per un'overdose di metadone. Beh, probabilmente possiamo anche togliere questo probabilmente. Johnny Thunders, secondo me, nella sua versione acustica è veramente bellissimo, è un ottimo esempio di quello che vi dicevo all'inizio, che spesso le versioni acustiche di alcuni brani sono molto meglio delle originali. Ecco, Johnny Thunders, secondo me, che spesso non riusciva manco a stare in piedi durante i concerti, che quindi aveva grosse difficoltà nella vita, ma anche sul palco, nell'acustica, secondo me, dà veramente il meglio di sé. Vi ho già fatto ascoltare in precedenza dei brani di Johnny Thunders acustici in altre puntate, in particolare Your Society Makes Me Sad, che secondo me è un capolavoro, ma quest'oggi vi faccio ascoltare She's So Untouchable dall'album So Alone del 1978, il primo che ha pubblicato da solo. Speriamo di beccare la versione acustica a questo punto e non fare come con NoFX, se no, vabbè, vi linkerò quella acustica. In ogni caso vi do appuntamento, no, non a prossimo mercoledì, perché vi dico, zomperò un paio di mercoledì causa vacanza. Sì, Slick Chick e la sua padroncina vanno in vacanza, e quindi non mi aspettate per cena, neanche dopo cena, non mi contate perché per un paio di settimane non ci sarò, ma vi lascerò in compagnia della Bobina e delle repliche wombattose. Quindi ci riascoltiamo ad anno nuovo, vi auguro con l'occasione un meraviglioso wombat anno, puccettonissimo, e ci riascoltiamo tra 2 mercoledì, anzi tra 3 in particolare. Quindi ciao ciao a tutti e alla prossima. Ciao! Can't close my eyes when she's around. My heart starts a pumping. I'm lost and then I'm found. It's getting so hot in here. I gotta let you know. 'Cause you make me crazy if I only let you down. Maybe my head's in the clouds and I don't even know. lady out. He knocks the boys at us now. She's so untouchable. She's so untouchable. She's so untouchable. But I can touch. But what can I say? It's been a long day. Some girls may walk on by, but I don't think I'll look anyway. Some boys may beg like a dog. Some girls beg, beg, beg too. But what can I say? But bon voyage, baby, 'cause now she's so untouchable. She's so untouchable. She's so untouchable. She's so.